Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Clima estivo che viviamo già da alcuni giorni, con questo mese di giugno che rispetto a quello del 2013 ci fa sudare un po' di più, e con il caldo sono tornate, le abbiamo già sentite, le zanzare, quelle notturne certamente, ma soprattutto anche le diurne. Ben trovato il presidente dell'Adico Carlo Garofolini, ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, questa fastidiosa compagnia estiva, il caldo è arrivato dopo un inverno così così, una primavera molto bagnata, le zanzare hanno fatto il loro dovere, si sono moltiplicate anche quest'anno in modo numeroso. E, allora, diamo qualche consiglio su come si combattono anche chimicamente le zanzare, ma non solo chimicamente, facendo attenzione appunto ai prodotti che magari vengono utilizzati soprattutto sui bambini. Certo Mirko, purtroppo è caso di dire che finalmente le zanzare hanno fatto la loro comparsa, certo un insetto che penso che per lo più di tutti noi sicuramente risulta essere più odiato e anche quello che insomma ci fa passare più le notti in bianco qualche volta. Certo è che si tratta di, come hai detto te, di valutare il fenomeno e comprenderne anche un pochino quali che sono gli aspetti che questo fenomeno può determinare, la puntura della zanzara e come prevenirlo, in quanto in commercio ci sono tantissimi prodotti e soprattutto quando questi prodotti risultano essere assimilati dai bambini, e valutare anche assieme quelli che possono essere i rimedi più naturali per non incorrere poi magari anche in fenomeni di intolleranza o di anche proprio allergia a quelle persone che magari possono scoprire di essere allergici maggiormente rispetto ad altri ad alcuni prodotti. Eh sì, prodotti preventivi che magari sono dei repellenti per le zanzare che generalmente utilizzano anche componenti ed ingredienti naturali, ma hanno pur sempre una parte chimica. Sì, certamente hanno una parte chimica, la maggior parte di questi, e tra i vari rimedi che possono aiutarci a prevenire certamente le punture delle zanzare, noi ricordiamo sempre che le zanzariere risultano il metodo più efficace in assoluto, un mezzo che comunque permette a tutti di poter dormire sonni tranquilli, ma anche di non utilizzare nessun prodotto chimico e che ed è di facile installazione, addirittura ci sono dei prodotti che insomma degli articoli che si riescono facilmente a collegare senza chiamare neanche personale esperto, addirittura ci sono centri commerciali che addirittura vendono proprio dei kit fai da te. Certo bisogna mettere in conto che passa un po' meno d'aria, ma bisogna tenere conto che comunque il fattore giovamento per la nostra salute sicuramente risulta essere lo strumento più adatto. Eh sì, è la salute, perché poi dove si utilizzano gli insetticidi, le piastrine, quelli di tipo liquido, insomma ce ne sono di tutti i generi. Quelli, credo che qualcuno usi ancora gli zampironi, quelli col fumo, giusto? Sì, guarda, intanto voglio dirti Mirko che prendendo in esame per esempio gli insetticidi ai repellenti, che sono quelli che si spalmano e si spruzzano sulla pelle per tenere lontano le zanzare, bisogna stare molto attenti sulle sostanze, soprattutto poi quando queste sostanze le spalmiamo sui bambini. Normalmente vengono sconsigliati per i bambini di età inferiore ai 12 anni e o perlomeno cercarne di utilizzare o ridurre al minimo eventuali spalmi sulla pelle per i motivi che abbiamo detto prima. Poi per esempio ci sono altri prodotti che magari sono meno, sembrerebbero meno pericolosi, ma che comunque ci sono, si è abbastanza cauti nell'utilizzo, sono i famosi prodotti a base di DEET, che sembrerebbero più indicati rispetto ad altre sostanze, che però ecco dobbiamo sempre ricordare che queste devono sempre stare molto lontane dagli occhi, perché poi possono anche creare anche qua dei danni che con il tempo potrebbero riservarci spiacevoli sorprese. E poi per quanto riguarda anche il modo di utilizzarli, bisogna sempre tenere conto che quelli che sono collegati alle prese elettriche di notte non è mai bene lasciarli inseriti, e anzi sarebbe preferibile arieggiare l'ambiente proprio per evitare di non avvelenarci di notte quando respiriamo, e soprattutto se è possibile anche i metodi tradizionali come ha usato, come hai detto tu, tipo i vulcani, i zampioni, vanno benissimo se posizionati magari lungo il perimetro e non certamente all'interno delle abitazioni. Poi c'è anche la predisposizione di ciascuno, perché c'è chi viene attaccato di più dalle zanzare, c'è chi viene attaccato di meno, quindi non è che siamo tutti uguali anche da questo punto di vista. Sì, una volta si diceva che le zanzare venivano attratte dal sangue dolce, no? Invece le zanzare, che ricordiamo appunto sono le zanzare femmine, e normalmente vengono attratte dall'odore della pelle, per cui anche qui, ecco, c'è chi più rispetto ad altri risulta essere un boccone appetibile per questo insetto, e soprattutto ricordiamo che appunto i bambini, anche per chi che per esempio viene portato a passeggio con le carrozzine, ci esistono anche dei veli che possono proteggere insomma queste navette da questo insomma fastidioso insetto. Eh sì, ci sono rimedi diversi, poi riuscire ad evitarle del tutto è praticamente impossibile d'estate, perché dentro casa non si può sempre tenere chiuso, fuori non, bisogna pure andare qualche volta per prendere aria, ovviamente sempre negli orari più adeguati, cioè adesso d'estate col caldo, non nelle ore centrali della giornata. Tu citavi le zanzare di sera, ma sono della nostra generazione le zanzare, che pungevano soltanto di notte. Da un po' di anni invece abbiamo anche quelle che ci fanno compagnia di giorno. Purtroppo sì, ormai abbiamo la zanzara tigre, che questa addirittura proviene, dicono, da oltreoceano, che purtroppo questa dà fastidio di giorno. Ci sono anche qua delle precauzioni che si possono adottare, delle soluzioni. Ricordiamo che soprattutto è l'acqua stagna sui sottovasi, sui tombini, sui fossi che ne determinano il proliferare di questo insetto, e che certamente se tutti noi adottassimo un po' di precauzioni e facessimo un po' di prevenzioni, potremmo certamente assieme, non dico debellarlo, ma renderci la vita sicuramente più gradevole in questo periodo insomma in cui si tenderebbe a tenere le finestre spalancate. E allora un po' di attenzione e prudenza soprattutto nell'uso degli agenti chimici e dei preparati sui bambini, ma anche sugli adulti. Con l'Adico di Mestre ci ritroviamo la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.